Oggi sembra una giornata né ventosa né calda e né non se ne capisce niente. Bene, secondo me al mare. Lasciamo perdere ancora, sono rientrato dalle funzionate accesa, c'è un venticello caldo verso la zona del mare. Poi ho iniziato a entrare a Sassari, c'è questo venticello che è un po' misto tra scirocco e maestrale. Non si sa che cosa voglia girare stasera, ma io continuo a dire che avremo ancora del bel maestralocco fresco, e questo mi piace tantissimo. Però non si sta così male, dai. Non male questa. Gita. Uno nel giardino danno a mangiare un gatto. Questa gallina non l'avevo mai vista, deve essere un nuovo acquisto. Cavolo, mamma mia, come sto. Capito? È passato dal discorso degli affari, gli afferratori non gli piacciono, però hanno abilitato il discorso subito. E tu, cosa devo dire? Ho visto una gonnellina di quelle stile, con una magliettina quasi da far vedere il décolleté. Si è chiamata ad andare a mangiare il gatto e mi sono alzate subito le stazionali e a te a giro di dillo. Assolutamente, sono il primo che ti ha detto, sono stato 10 minuti sotto casa tua e ho capito che c'è un passaggio giusto, capito? E quello che hai visto uscire l'altro giorno, c'è un bel passaggio che non l'abbiamo mai visto. È l'ultima scala, è finita dall'ultima scala, perfetto, bene, sapere, se vuol dire che porterò il cagnolino nell'ultima scala a fare la pipina al portone. Che falchetta portare, come si chiama? Luigi. No, sempre tu mica no, più mi scendimi, Giulio, me, ma parlando male ti stanno me. Giulio. Tu si chiama Tullio. Sì. E un giorno metto forchetto, però un attimino di bianco devo andare a mangiare a Tullio. Boh, che cazzo un figlio di nonna. Ecco perché, ma a tuo nipote c'è, che ha detto Giulio, Rugani, cazzo, Rugani, Giulio si chiama. Uno che l'aveva chiamato Filippo lo stesso. Filippo? Tullio? Già va bene, che problemi ci sono. I nomi dei cani sono tutti belli, quello di Forchetto è simpatico, ma ci picchia. E guarda anche la faccia, è un bassotto di quelli proprio. Bassotto. Ui, e quindi cos'hai fatto stamattina? Tutto ok, tutto a posto. Oh Claudio, come ti devo vedere tu, appena se ti ha riconosciuto me. Se ne è pesato e te la concede. Ebbene, a me mi vede spesso, tocco lo carezzo. La voce, attenzione che il cane memorizza la voce del collega, io non vado a prendere la mattina, devo spegnere la macchina per aspettarlo sotto casa a Gabriele. Devo spegnere la macchina perché come arrivo alle 7. Lui sente la macchina a Bahia, siccome di tu, guarda, devo spegnere la macchina, riconosce il motore della macchina, capito? Sente la voce, nulla, e il cane è memorizza purtroppo queste cose, è allucinante. Stavo dicendo, Globe, cosa hai combinato stamattina? Niente in particolare. Stamattina, a dire la verità, ho combinato questo, siccome sono in procinto di ordinare le magliette. Stavo vedendo un attimino, c'è questo sito che si chiama Vista Print e che fa degli ottimi prezzi per quanto riguarda le magliette dell'associazione. Dopodiché è partita, stavo chiedendo dei preventivi attraverso Pollicina alla Nuova per vedere un attimino di mettere l'inserzione per quanto riguarda la prima cosa che dobbiamo fare, che ben sai, cioè riguardante il mercatino che dobbiamo fare. Positivo, e va bene, parliamo di persone su quello. Guarda, noi quelle della sezione Ari le abbiamo fatte via Savoia, sono praticamente delle polo blu con il nominativo, che poi nominativo non si chiama da noi, comunque ed è praticamente cucito, non è adesivo, è cucito, è fatto a macchina, molto bello, veramente bello, te lo faccio vedere, 10, adesso non mi ricordo se 10 o 15 euro, adesso a seconda di come la ricamo, però col ricamo e non con la stampa. Tanto ci fa il collegio io, ricamo, in via Savoia, proprio di fronte dove c'è l'ambulatorio Massimiliano Archimede. Lì sono molto belle, sono blu, hanno già diverse lavate, le mie non si sono scolorite, sono rimaste intatte. Il prezzo è buonissimo, ma il giubbotto qui è fenomenale perché all'interno c'è la felpettina e quindi è molto caldo, molto caldo, la Varrelli, mettevo quello con addirittura la polo maniche corte sotto perché era molto molto caldo il giubbotto. Vabbè, parliamo di questo, non c'è problema, ne parliamo e si fa anche qui, si fa anche qui. Un'altra cosa che volevo dire, oggi è martedì, venerdì mattina mi devo vedere con l'assessore per quanto riguarda il comandante, quello mio, per vedere se c'è la possibilità di avere una stanza lì dove c'è il comando della zuffira all'autoparco, siccome le stanze lì sono molto grandi e praticamente risulteremo noi. C'è anche il posto per mettere l'antenna su eccetera, entriamo noi e la compagnia Baracellare e la Doffia. Poi ti faccio sapere venerdì cosa mi ha detto l'assessore ambiente. Fa di Roger, fra l'altro ti dico, tanto ti ripeto, a me piace più fare le cose senza, cioè non devono essere nascoste a nessuno, quindi pubbliche diciamo. C'è un socio sostenitore che sta per depositare una bella cifra importante e quindi stiamo partendo diciamo col piede giusto. Sì, ma anche io dovevo fare l'assessore anche apposta per questo, perché non è obbligatorio, ma ci sono dei fondi destinati alle associazioni tutto il 2011, quindi noi siamo ancora in tempo per fare la domanda. Sono 2.000 euro che servono appunto per sostenere la spesa iniziale. E siccome ci siamo sentiti per altre cose, gli ho accennato questa, e Mattia e venerdì sono in assessorato. Quindi passo a provarmi venerdì mattina e ci facciamo due chiacchiere, capite? Posso intervenire, scusate? Vai, perché? Sto uscendo un attimo da portare quattro zampe, riprendo subito. Ehi, Anto, siamo qua. Ecco, va a far che? Via, a dopo. Ti stavo dicendo, sì, un po', sicuramente, non so se hai visto, è bastato un articolo comunque che ha svegliato la cosa, quindi un po' di pubblicità stavamo pensando per questa cosa del mercatino, perché il mercatino, che poi non mi piace il termine, sembra di cosa piccolina, di cosa un po' striminzita, mentre invece vorrei organizzare qualcosa di un attimino più imponente. Vediamo, comunque la prima riunione adesso la facciamo fra una settimana, appena rientra la commercialista che mi dà tutta la documentazione in modo tale che abbiamo tutto, perché il codice fiscale c'è già e adesso l'unica cosa, bisognerà aprire un conto, mi stavo informando qual è il migliore, cioè quello che ha meno spese, capito? Sì, scusa, mia figlia è comprato un diavolante buono, mi dovrò lavorare e quindi stavo, mi ha un po' di stress. Ah, buonissimo quello della Police. Insomma, questa figlia che ti vuole davvero bene, eh? Beh, ne ho una sola, quindi figura. Mi vizia. Sì, chi domanda tu? Mercatino, parola giusta, ottima idea. L'aria deve sapere che la persona che mi sta a fianco gestisce tutta la pubblicità del Tanit, quindi sicuramente se c'è da fare qualcosa si farà. E allora contatta Chiara direttamente. Cioè contatta lei a Chiara direttamente, chiuso questa parentesi. Ti il discorso di Ilaria, di lei, se vuole mi può chiamare, dopodiché io le do adesso stesso il numero di Chiara, e così chiede direttamente a lei, mi lascia 2 minuti per chiamarla, perché se sta aprendo qualcosa è bene, se il ferro è caldo è bene batterlo, se no poi basta anche una giornata e cambiano i giochi, quindi dille di chiamarmi un attimino. Il tempo, però, che mi lasci il tempo un attimino, lasciamelo anche tu un attimino in bianco che mi devo segnare il numero. Passa in quella di servizio, cosa ti devo chiamare? Passa in quella di servizio. Sono qui dentro, sono qua, fai pure la telefonata e chiamami quando hai finito. Troppo piatto, ero basso, dimmi. Come? Parlavi con me. Ho detto fai pure la telefonata, sono qua. Poi ci sentiamo al telefono e spostiamo quella di servizio una volta. Ok? Se c'è un stazionario dovrebbero illuminarlo e scrivere sopra da 1 a 2. Se è l'Herbert, io mi ricordo che funzionava al contrario, quando c'erano problemi si spegnevano i led, cioè non erano tutti accesi. No, tocca anche nella storia questa, quel campo di caccia. Trovi all'estate questo di quello per dire Herbert, quando tu riesci a chiedere un pulsante delle stazionarie. Allora, quando avevo quella saturazione del 50 watt, Ui. Quindi anche a te bisogna regalarti quei guantini senza le dita, quelli che si usano gli sciatori, in modo tale con un dito solo, che è quello del Mike, dopodiché non tocchi nuda. Io per evitare, ti dico la verità già, per evitare di farmi tutte queste pippe mentali, mi sono comprato il baracchino più semplice di questo mondo, quindi in questo momento non ti posso dare un segnale di Santiago, che non serve poi a niente. Perché tu puoi uscire con un Santiago, puoi arrivare con un Santiago di 9,40 qua, ma con una radio di 1, considerando che ci sentiamo con la radio e non col segnale, è relativo, capito? Allora, io non ho, questo baracchino qua non ha neanche lo smitter, controllo solamente le stazionarie che siano a posto per non bruciarmi i finali quando faccio un passaggio un po' più lungo, però fai sì che la radio sia udibile, che sia piacevole, che sia che vada, che si propaghi bene, come adesso. Dopodiché del segnale che non ti posso dare perché non c'è lo smitter, a futti dinni. Ti ripeto, da questa postazione qua io non ti avevo mai sentito così bene, quindi secondo me se vado nell'altra sei una bomba. Turbo, è un piacere, assolutamente. Ok, già, fai pure le prove, noi siamo qua, non ci sono problemi. Va bene, adesso c'è il computer, poi ti scrivo due righe nel sito, perché quello che ho visto è una cosa orrenda. Non so, perdonami, non so a cosa ti riferisci, comunque, sai benissimo che le tue critiche sono sempre bene accette, o almeno così faccio credere che siano. E allora devi farle credere, perché se non te lo metto per iscritto. No, io voglio che me lo metti per iscritto, in modo tale che quando parte la denuncia so cosa portare in tribunale. Ma si conferma, caro dottore, si conferma. No, ti scrivo due righe per quello che ho visto un ingresso anomalo. Ma di Rogero, sono qua tutto orecchie, mi sa che fa un po' me ne scendo, ma come sto parlando, questo è paracchinese allo stato puro, me ne scendo. Ma bisogna iniziare a correggere l'italiano, perché io in primis è inutile che con un baracchino esci bene, c'hai potenza, c'hai una buona radio, dopodiché dico una cosa come quello che ho appena detto, me ne scendo, ma quando mai? È una parola molto adeguata ad un linguaggio politico che conosco. Va bene, fai quello che tu ritieni opportuno fare, è praticamente quello che tu desideri, avvisami solo se sei in zona, così andiamo a prendere un caffè, punto. Io dovrei passare a casa, mi farebbe piacere farti omaggio di quell'antenna, perché mi sta dando fastidio, non per altro, se no assolutamente non ne avresti preso. E dopodiché, promessa fatta, ti devo portare anche quel film, perché secondo me se alla Ilaria gli dà fastidio una determinata situazione, nel momento in cui vede quel film vedrai che è ancora peggio. Infatti, faglielo, io sono quanto, però gradirei se mi fai un colpo di telefono in modo che mi preparo, capito? Sono qua a casa comunque, puoi tranquillamente posteggiare e salire, non ci stanno problemi, anche perché devo, quella mi ha già messo il lavoro, capito? Io già sono stanco, ha sfoderato il divano, adesso io volevo tutto rifoderare e rimettere a posto. Ma porca miseria, dai, chiamami al mio telefono quando sei in movimento e vieni qua a casa, ti aspetto. Se tu lasci acceso adesso sul canale 10, io intanto sto riprendendo l'ABM, quindi se metti un po' di volume senti la chiamata. Sì, no, non sono distante dalla radio, non sono distante, si sente tutto, perché le colonnine in questa stanza sono praticamente a tipo, sai quelle che si appendono ai muri in alto agli angoli, dai, ti sento lo stesso, non c'è problema, vai tranquillo. Quando sei in macchina chiamami e vieni direttamente qua, io mi metto a sistemare questo divano, ci picchiano anche una gamba, mamma mia. Lo dici, cosa hai già fatta? Quello di piegare i cuscini perché non ce la fanno, perché prima li toglierli ce la fanno per lavarli e dopodiché rimetterli ti devi spaccare le mani, è una storia già vista. Ah, io fai marito mandrone. Lo mi. Poi pompo, il mandrone, è che li ho tolti io, a toglierli è facilissimo, come ha detto Antonio, a rimetterli è un casino, e sono sicuro che mi fa sudare, adesso vabbè, vuol dire me ne vado un po' giù a fare questo lavoro, dai, e mi allontano 5 minuti alla radio e sono qua a casa, Antonio, ci sentiamo, sono qua, è tutto acceso qua nel canale 10, non c'è problema. solo che sto facendo una cosa, mi sta venendo il mal di mare, sto mettendo le foto da un divano, un secondo solo già. Avanti. Oh, a tu. Sì, no, stavo dicendo a Gianni, ho capito che tu eri occupato, ma Gianni Chiaramonti. Non so se ti sei, ascolta, dimmi se c'è anche Chiaramonti, perché a me l'aria sta uscendo. No, negativo, negativo, è andato ad accompagnare un'amica a fare una visita, è per quello che non riesco neanche a contattarla al telefono. Preoccupato, sì, dai, che io sto facendo di assemblare questa cosa, mi sta vedendo un morbo di Alzheimer. Morbo di Alzheimer vuol dire che te ne stai dimenticando, eh? No, non mi dimentico, non si fidano le cose, però mi sto sentendo male. Allora, se stai tremando? Ti stavo tremando le mani. Non è Parkinson. Ma Parkinson? Vabbè, non mi sto vedendo il morbo di Parkinson. Ah, io i mobili, fammi fare, sono qui. Chiama quando sei sotto. E se no, posteggi, non c'è bisogno che ti indichi niente. Posteggi, cancelletto piccolino, a destra. ok, ma c'è qualcosa di chiuso lì, non so. Però io ti ascolto benissimo. Ti faccio la chiamata io quando sono sotto.